Il caso è quello di un contribuente dal tenore di vita lussuoso che beneficiava per il figlio liceale dei cosiddetti buoni libro, il contributo comunale per testi e materiale didattico riconosciuto agli alunni delle scuole medie e superiori con un basso reddito familiare. Per ottenerli, infatti, c'è un limite stabilito in base all'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente che misura guadagni, patrimonio e caratteristiche della famiglia. Nel comune di Roma, per l'anno scolastico 2011-2012, il contributo è riconosciuto agli alunni il cui reddito familiare, misurato secondo l'ISEE, non supera i 10.632,94 euro. Il contribuente evasore aveva dichiarato un reddito di poco inferiore, pari a 10.500 euro. Ma per capire la sua vera capacità di spesa è bastato incrociare informazioni dell'anagrafe tributaria che può risalire fino al 2008 e il nuovo redditometro. E si è scoperto che il reddito dichiarato per avere i buoni libro mal si conciliava con l'acquisto cash di una Porsche Cayenne S, benzina 4.800 di cilindrata al prezzo di 80.000 euro, di una microcar Châtenay per il figlio 8.000 euro, di una settimana in beauty farm per la moglie con un'ulteriore spesa di 5.000 euro e con una crociera di famiglia nel Mediterraneo noleggiando una barca a vela di 12 metri con skipper a bordo, spese che andavano ben oltre il prezzo di un libro. Insomma, per chi paga onestamente le tasse oltre al danno la beffa, ora dopo averne colpito uno occorre educarne mille. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.